Benvenuti a Dedicato, ciao ragazzi, bentornati. Ciao a tutti. Ah, sono un po' esaltati oggi, ma come? Oh, è la puntata natalizia. Stavo pensando a una cosa. E già comincia a pensare. Stavo ragionando, infatti non parlo io perché sto ragionando, sto metabolizzando dei concetti in vista delle prossime settimane. Addirittura, sì. Molto bene, allora parlo io, non parlare tu metabolizza, intanto pensa. Ci sono i ragazzi di Voice On Air con noi. Ciao! Wow, non c'è la mascotte attualmente in questo momento, ma abbiamo Stefano, Cri, La Cri e Kempa. Bene, ok, ragazzi, dalla settimana scorsa cosa è cambiato? È cambiato che è quasi Natale! Yes! Che potremmo dire tempo di avvento o no? Perché siamo già comunque all'interno del tempo di avvento. Vista di una, visione natalizia o cattolica o no. E su questo pensando esattamente anche a una delle varie cose, era esattamente questo. Lasciala introdurre. Introduco, infatti, proprio il discorso di questa nostra puntata sarà il Natale e sarà questo. Cioè, come viviamo il Natale qua, no? Ma come lo viviamo noi, come lo vive il mondo, perché ci piace anche guardare fuori dal nostro studio. Quindi, partiamo proprio da teste. Come lo vivi il Natale? Raccontaci. Allora, io vivo... Secondo me. L'avvento, perché è un tempo un po' veloce, ma vivo di riti tra il 23 e il 25. Ah, il 23, con mia sorella, non dirò il posto, non lo dirò perché sennò qualcuno qua mi prende in giro. Vabbè, andrò nella ridente Bellaregia Marina, il fulcro, il centro della riviera della vitalità romagnola. A dicembre. Il fulcro della vitalità romagnola e mia sorella, è Bellaria Igea Marina. Esatto, andiamo alla gelateria Banana a prenderci il gelato. Torniamo dettagli, ti giuro, mi sento male. Allora ascolta, la Cri mi si sente male, Kempa non commenta. Il 24 appunto io tornerò in chiesa, scusa mamma, non ci vado dal 97, tornerò in chiesa alla messa di mezzanotte. Perché? Non tanto per un fatto cattolico, scusatemi radioascoltatori, non ci credo molto, ma per un fatto sociologico, perché voglio vedere come i miei compaesani si sono evoluti nel bene o nel male, e io starò lì in silenzio e guarderò. Quindi tu non vai ad ascoltare la messa in quanto credente cattolico, ma in quanto studioso di sociologia e comportamento umano, praticamente. Esatto, e il restante del tempo poi passerò con la mia famiglia facendo delle chiacchiere e bevendo del gran vino. Ok, questo è il Natale di Ste, insomma, ognuno poi si rappresenta come vuole, ma noi perché stiamo facendo questa puntata? Non perché ci interessi particolarmente raccontare i nostri Natali uno per uno, ma perché probabilmente qualcuno si rivede nei nostri Natali e dice «Ah, cacchio, anch'io non vado in chiesa dal 97!» Oppure adesso ascoltiamo i racconti degli altri e possiamo dare degli spunti di riflessione su questo Natale, che è un po', come dire, così un po' ambiguo per noi, perché alcuni ci credono tantissimo e amano la magia del Natale, altri, tipo la mascotte per esempio, che hanno anche una certa età effettivamente per amare ancora tutto questo rituale del Natale, e alcuni invece non ci credono per niente, dicono vabbè, un giorno come un altro, chi se ne frega. Quindi a noi piace lanciare questo spunto di riflessione. Passami la mamma, lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino, avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire, resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male, dormo fuori e non farti male. te lo prometto. E per favore stira la maglietta, c'è un concerto, mi serve quella rotta. Ricorda di comprarmi dei calzini, Schiantos, sono un ribelle mamma, grazie Freak, grazie davvero di essere esistito, di esistere ancora con noi. Torniamo al nostro argomento natalizio, ascoltiamo qualcun altro dei ragazzi. La Cri, dici la tua, dai. No, sicuramente quello che mi piace e mi associo ovviamente a sé del Natale è la tradizione, quindi avere dei piccoli riti magari che si fanno prettamente in famiglia, quindi questa cosa si ripetono appunto da tradizione, questa cosa piace molto anche a me. Tipo io come tradizione ho quella di andare a vedere tutti i presepi di Bologna, tipo di base con mio padre e mio fratello, che sono i più infogliati, diciamo. Bellissimo. Solo loro due. Andiamo a fare tutti i giretti in Via Azzurra. Il presepe di Via Azzurra. Famosissimo presepe di Via Azzurra. Che non so se lo fanno più, ragazzi. L'anno scorso c'era. L'anno scorso c'era, ma aveva annunciato che non l'avrebbe più fatto. Io non lo so, dovremmo informarci, dare un'informazione seria su questa cosa, effettivamente. Potrebbe saltare la mia tradizione. La Cria è sconvolta, si sente male, sì, lo so. E comunque, ecco, vedi, stiamo parlando di tradizioni. Le tradizioni sono molto belle in tutto il mondo, perché comunque legate al Natale ci sono vari momenti. Boh, no, io sono molto pagana sul festeggiare il Natale e a me piace tantissimo, comunque, sempre per il discorso tradizioni, noi in famiglia abbiamo tutti i nostri rituali, anche noi. Come lo vivi il Natale, mascotte? È arrivata la mascotte? Tanto cibo. Cibo, no, perché fa parte della mia famiglia la mascotte. Io parlavo di rituali, tradizioni, cose molto belle. Mascotte invece? Arrosto, tortellini, cibo. Ah, ti vedo vegetariana, insomma. ok, molto bene. Mascotte, arrosto e tortellini. Ti ritrovo vagare per via Corticella rotolando. Sì, meraviglia. Passatelli, brodo, super, in giro per la Bolognina, una piccola pallina che rotola piena di cibo. Andiamo avanti, ci manca Kempa con il suo Natale. Ah, io anch'io faccio tanti rituali, anche se quest'anno per vari motivi penso più a trasformazione della tradizione dei rituali più che ai rituali stessi, nel senso che per una scelta mia sono diventato vegano quasi e sono bolognese, quindi è un simbolo veganesimo, come Emilia Romagna è veganesimo, anche bolognese è uno simbolo, però non mi scoraggio e potrebbe essere una sfida per creare nuovi manicaretti ancora più buoni di quelli tradizionali. Quindi potrebbe essere una sfida per me, nel senso che per me, anche per me, il Natale, come te e chi è sempre stato cibo, anche per la mascotte, esatto. Sì, però cibo. Quest'anno devo usare un po' di creatività. Secondo me la tradizione e l'innovazione si salvano a vicenda con la creatività. Allora, esatto. Qua si parla di cultura, tradizioni, rituali. Oh, ragazzi, abbiamo tirato fuori tanta roba per il Natale. Cioè, il cibo. No? E si parla anche del cibo, mascotte, certo. Io farei così, manderei un brano. Stefano, scegli il brano. No, si lega a un fatto di riti. È una delle la canzone che ascolto quando in casa, che è la canzone di Giancane, Buon compleanno Gesù. Oggi è di nuovo Natale, oggi potrei anche morire, parenti e dementi, è Natale, buon compleanno Gesù. Nonna col deambulatore cade e si rompe il femore, la aiuto e leggio a bestemmiare. Oggi che è nato Gesù, arriva mia zia con il cane, che non smette mai di abbaiare. Gianni gli tira un bastone, adesso non abbaia più. È Natale, è Natale, è Natale. Buon compleanno Gesù. Cucino ha un ritardo mentale, mangia la carta e sta male. La madre gli passa un bicchiere per festeggiare Gesù. Zio beve vino da ore e non riesce più a respirare. Sbiascica, vomita e muore. Oggi che è nato Gesù, è Natale. E allora abbiamo ascoltato Giancane, grazie Ste per questo brano. Mascotte, hai una domanda esistenziale? Sì, sì, sì. Panettone o pandoro? E questo se nella mi puntata dite panettone, panone. Io giuro che chiudo. Panone. Niente, panettone, che la mascotte no, però io chiudo, chiudo. È una domanda veramente intelligente questa sotto Natale, effettivamente, eh sì. Dobbiamo o fare panone, sondaggio. Come dice Kempa, o panone, perché certo, certo, ognuno sì. Ognuno pancotto, ha il suo. Io panettone, io invece sono un democristiano. No, non dire rispondo, lo so, lo so, va contro la mia natura, contro la mia natura, e dico tutti e due, ma ma se ci ha un tocco in più il pandoro, se c'è, stai bravo, stelline nel mio cuore. Stelline, ma no, mi sono mai confuso. mascarpone con sky cioccolato e pandoro. I regali, ragazzi. Io, io però non sarei regali, curioso regali, della regali, dove? Ah, tu hai detto panettone, panettone. Ah, ma tu sei tornato indietro, io sono già avanti con i regali, ragazzi. Allora, lui è affamato, allora, dobbiamo i regali di Natale bisogna ragionarli un attimo bene, cioè non è che uno può regalare così la cremina, la cosa, diventa imbarazzante, veramente. Io ogni anno inizio a novembre a pensare, oh santa pace, è già novembre, che cosa devo regalare a Natale? Perché a me piace fare i regali, però mi piace farli a certe persone col cuore. Certe altre che poi ti portano il regalo, io mi sento male, me lo porti, io dopo non c'ho da darti niente, mi sento male, non ce la faccio. E quindi prendo delle cose a caso, da regalare a persone a caso, che non si capisce il significato di questa cosa. Quest'anno bisogna regalare delle robe serie. Allora io ne ho due robe serie da regalare. Una, ne abbiamo parlato nell'intervista con proprio lo scrittore di questo libro, che è Claudio Metallo, che ha scritto Calypso Hotel No Vacancy, che è un libro bellissimo. Io adesso, cioè, non posso dire che è bellissimo in realtà perché non l'ho ancora letto, ma so che è bellissimo perché l'ha scritto lui e li ho letti tutti i suoi, quindi non potrà essere brutto sicuramente. Consiglio assolutamente questo regalo, si trova in tutte le librerie. Claudio Metallo è un compagno di vita da sempre, un amico, è uno scrittore bravissimo. Poi ragazzi, ho il secondo regalo. Il secondo regalo a è me. L'abbonamento a Radio Città Fujiko. Cioè, allora, qua bisogna fare dei regali seri. Quindi mandiamo lo spottino e poi sentiamo cosa regalate voi. Non vi azzardate a dire qualcos'altro, se no l'abbonamento. Perché l'abbonamento si regala, ok? Abbonamento alla radio per tutti. Abbiamo 50 anni, portati con rispetto, se ti abbonerai la radio guadagni. Era un fumetto che racconta un po' di storie, non certo ordinarie, di Città Fujiko, una radio comunitaria. Scopri come abbonarti su www.radiocittafuscico.it/abbonamenti. Stavo pensando a quello che potevi dire e... E ho detto qualcosa di intelligente. No, cioè, incredibile. L'hai detto proprio, cioè, l'hai detto bene. È vero, l'abbonamento è una cosa pazzesca. Oltre all'abbonamento a Radio Città Fuggico che tutti sì. regalerete, questo discorso regali, anche lì andiamo a coinvolgere il nostro pubblico. Cioè, noi come viviamo la storia regali? Perché qua, io come vi ho detto, per me in alcuni casi è così un po' imbarazzante. Io vorrei provocare in maniera bonaria i nostri radioascoltatori, perché io e la mia famiglia non ci facciamo regali da veramente 15 anni, non dal 97, ma facciamo un attimo i conti, secondo me è dal 2010 che non ci facciamo regali, ma attraverso i riti precedenti o comunque la tradizione e lo stare bene insieme. È già quello un regalo, perché non si guarda l'orologio, non c'è fretta, c'è la cioccolata, la spongata la domenica mattina, il giorno di Natale. Io li faccio a Natale, ma per ansia e per senso di ingratitudine rispetto a chi me li fa, perché so che i miei me li faranno, in quanto credono molto a Natale, e quindi cerco di ingegnarmi, però quello che a volte succede è che faccio dei regali di merda, diciamo così, perché certo, comunque, certo. diciamo, come va detto, a me piace molto più farli quando lo sento di farli durante l'anno, cioè sento che a una certa, vedo il libro perfetto per mio padre, non so, così per... spiegargli che il Natale è una cazzo, no scherzo, non so, trovo il libro giusto da modo, non lo so, così non si può fare pubblicità. Fai no? pubblicità, dov'è Vabbè. Che lo prendi il libro? Da modo InfoShock. Dov'è modo InfoShock? Modo InfoShock è in via Mascarella numero non so 100. Ok, a Bologna, abbiamo fatto la pubblicità a modo. Oppure, no, io tante volte li prendo al mercatino di Campi Aperti che c'è sotto la tettoia Nervi, che adesso chiamano Piazza Lucio Dalla, ma è la tettoia Nervi. E il giovedì pomeriggio, quindi anche Bellissimo. Lì per esempio si vanno a sostenere erboristeria, la birra, sì, il vino, buonissimi, si vanno a sostenere tutti i produttori, i contadini, quella è cosa bella anche. Va bene, Cri, raccontaci qualcosa dei tuoi regali. Io in realtà adoro fare regali e riceverli, sono onesta, quindi cioè, la parte che mi piace di più in realtà è proprio il momento in cui la persona apre il regalo che tu hai scelto per lei, e quindi quel mix di stupore, di contentezza, cioè, insomma, in teoria, è la parte che mi piace di più. Quindi sono ovviamente quella che a casa deve prendere i regali per tutti. Cioè io scelgo i regali per tutta la mia famiglia, di base. Cioè... E siamo tornati a parlare di cultura, tradizione e tutto ciò che è il Natale. Quindi, cari ascoltatori, fate vostra questa puntata e cercate di riflettere e trovare il vostro modo di festeggiare il Natale, che non sia consumista, che non sia... non dico, mi fermo, consumista appunto. Che non sia come vacanze di Natale 95, tutto legato a questo consumismo sfrenato, la vacanza, no, ma perché c'è un discorso, c'è una dietrologia. Le vacanze di Gea Marina, lasciatele stare, se avete idee Marina, strane, no, lasciatela stare. Bellari e Gea Marina, no a Natale. La Romagna la chiudono, inverno, io ragazzi. Sapevo che chiudevano te proprio. Radioascoltatori, aiutatemi. La Romagna d'inverno è bellissima, però Bellari e Gea Marina, io cioè, non lo so, forse andrei in un altro punto della Romagna. Che cosa stai facendo, Stefano? No, non mi manderai a quel paese, perché non si possono dire le parolacce in radio. Parolacce? Io non dico parolacce dal 94 invece. Dal 97 non vai in chiesa, dal 94 non dici parolacce. Basta. Ah, bravissimo. Cosa ne pensi dei regali di Natale, tu, mascotte? Costumismo! Puoi andare. Va bene, mandiamo il brano che ha scelto Kempa, direi. Io non saprei. No, allora, se io ti ho già detto prima, no? Facciamo riferimento al consumismo, per esempio, perfetto di vacanze, Natale 95. E qual è la canzone di Natale? Quella, te la canto. Pi pa pa pa ra pa. Ah, è vero. È quella di. E come si chiama? Scatman's World. Calling out from Scatman's world. If you- Scatman's World. But how can someone win if winning means that someone loses? I sit and see and wonder what it's like to be in touch. No wonder all my brothers and my sisters need a crutch. I wanna be a human being, not a human doing. I couldn't keep that pace up if I tried. The source of my intention really isn't crime prevention. My intention is prevention of the lie. Man's world. Allora ragazzi, va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata natalizia. Abbiamo parlato del Natale, bello, tutto molto bello, sì. Siamo felici, sì, quindi fra poco, ciao, per festeggiare il Natale, evviva, ci risentiamo a gennaio, ci rivediamo a gennaio per questo corso fantastico, siete fantastici, ciao, sì, ciao. Anche tu. Stefano, cosa stai ridendo? No, per favore. No, stavo per dire una cavolata. Cioè, c'è stato un regalo di Natale in anticipo, ragazzi. Io non so cosa sia, però vi auguro veramente del tempo per voi, soprattutto del tempo per voi e per i vostri cari, ma soprattutto tempo per voi, Santa Madre di soprattutto Dio. Tempo per andare già a Marina d'inverno, se posso permettere. No, poi volevo dare un altro, una sorta di consiglio. Del tempo, nel momento in cui vi prendete il tempo per voi, andate... Prendetevi del paese. Tempo, no, per andare al cinema da soli, prendetevi, io c'ho un altro rito, io vado il 25 sera al cinema da solo, in galliera. Era il giorno che mancava del rito. Io ci vado il 25 sera da solo al cinema. Ma wow. Allora, sti auguri di Natale 2025, li vogliamo fare sì o no? Bah! Scegli un brano natalizio, per favore, veloce, non possiamo fare degli auguri. Ok, vai, ce l'ho. Dai, veloce. Ma se dovessimo spiegare, tandada, in pochissime parole, tandada, il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore. Basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare. Stop. Come, scusa, perché mi stavo esaltando? Perché non è una canzone natalizia. Hai ragione, infatti, ma l'hai scelta tu. Oh, beh, sei un bel tipo. Vabbè, l'hai scelta tu. Non è vero. Credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani. Eh sì, però anche questo non è un brano natalizio. Oh, ma non è natalizio, dai. Tu sei un mattino, una porta su Marte. Sei il mio cuscino dalla giusta parte. Ma scusa, questa qui ti sembra un brano natalizio? Allora, brano natalizio. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Ok, salutiamo, facciamo così. Mascotte, ciao, buon Natale, buone feste, buon anno, saluta gli ascoltatori. Ciao. Molto bene, convintissima, gioiosissima di questo Natale, la mascotte, la sento. Ragazzi, e ci auguroni, sentiamo a gennaio. Auguroni, auguroni a tutti voi. Buon Natale, ti picchio, ti faccio male, ti butto giù nel cane, non ti vedo mai più. Grazie Mascotte per questa fiducia nei confronti del Natale e dell'essere umano. Ciao, auguri! Ciao, auguroni! Buona festa del Sole Invictus! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo sole va sempre più giù.